picchi di frequenza. Storie, viaggi, recensioni. Il settimanale di montagna di Radio Onda d'Urto. Venerdì 27 novembre in compagnia di Picchi di Frequenza. In questa puntata andremo alla scoperta del trekking urbano in compagnia di Ajorn. Avremo poi una lunga chiacchierata con Nunatak per festeggiare i 10 anni della rivista di storia Lotte e Culture della Montagna, ma prima di cominciare le notizie della settimana. Non mancano che 3 giorni all'avvio della 21ª conferenza sui cambiamenti climatici che si terrà nella città di Parigi tra il 30 novembre e l'11 dicembre. Per questo motivo una rassegna stampa tematica. Il primo articolo, tratto da euronews.com dal titolo Addio ai ghiacciai delle Alpi, cita tra gli altri le parole di Giovanni Mortara, geologo del CNR, che a proposito del ghiacciaio del Monte Rosa a cavallo tra Italia e la Svizzera afferma: stiamo constatando una notevole perdita di spessore di ghiaccio di alcuni metri all'anno. Quest'estate probabilmente può aver perso anche una decina di centimetri al giorno. Il secondo articolo è tratto invece dall'edizione valdostana della Stampa. Il titolo è Studio sui ghiacciai del Parco del Gran Paradiso. Risultati preoccupanti, sono tutti arretrati. È un bilancio impietoso anche quello che guarda al Parco del Gran Paradiso, mentre ci spostiamo in Centro Italia, perché da mountlive.com arriva invece il terzo contributo dal titolo Allarme ghiacciaio calderone sul Gran Sasso ridotto del 33%. La notizia giunge dall'aggiornamento del nuovo catasto dei ghiacciai italiani redatto dall'Università degli Studi di Milano. Sostanzialmente il calderone si è diviso in due piccoli glacionevati. Oggi la situazione sta precipitando. Insomma, sono 3 notizie che nel loro piccolo ci aiutano a dare un quadro, insomma, alle trasformazioni che stanno investendo i ghiacciai delle Alpi, ma non soltanto, perché parliamo anche di Appennini. Le stesse trasformazioni che investono oggi i ghiacciai del bel paese hanno ripercussioni a livello globale. L'ultimo consiglio di lettura, firma Andrea Barolini sul sito di LifeGate, è Terre aridi, ghiacciai in ritirata, città asfissiate, l'India sconvolta dai cambiamenti climatici. Sono le considerazioni riportate dall'agenzia AFP di un gruppo di scienziati dell'Università di Kashmir che studiano gli effetti dell'instabilità climatica e della crescita delle febbre del pianeta proprio nella regione himalayana. Ci troviamo in Piazza dei Mercanti, luogo dove, che abbiamo utilizzato come meeting point anche nel primo trekking urbano, e ci troviamo lì perché da lì inizierà una narrazione che sostanzialmente riguarderà Porta Vercellina, che è uno dei sestieri di Milano, una divisione che ci riporta grosso modo al Medioevo, ma che comunque può ritornare utile a segmentare la città. In questo caso diciamo che prendendo questo spicchio della città riusciamo a mettere assieme anche spostandoci nei vari luoghi dove ci sarà la narrazione su 3 tematiche che sono la Milano romana, la nascita del cattolicesimo, la sua affermazione come religione di Stato, e poi la guerra agli eretici e alle streghe. Funziona sostanzialmente che c'è una voce narrante, che è quella che sta parlando adesso, ma che, come nel primo trekking urbano, speriamo che venga supportata, corretta, diretta e insomma che ci siano delle aggiunte corali a questa narrazione. In più ci siamo pensati anche di fare una sorta di gioco e quindi di mettere in un sacchetto delle questioni che riguardano comunque questo sestiere, che verranno via via sorteggiate e quindi narrate. Questo sabato 28 alle ore 15 con appuntamento in Piazza dei Mercanti. Accennavamo che è il secondo dei trekking urbani, c'era stata una prima esperienza lo scorso 19 settembre. La domanda è: perché un trekking urbano? Cioè, perché un'associazione che nasce per andare in montagna e portare gli abitanti dell'urbano fuori porta, invece si ritrova dentro la porta? In realtà il tutto nasce sostanzialmente un po' per gioco, nel senso che io curiosando in rete cercai urban trekking per vediamo se fanno sta cazzata, no? E invece poi in realtà trovo esperienze anche italiane e ovviamente estere. Le trovo comunque molto strutturate e molto seriose. E a quel punto però, rimettendomi a leggere alcune cose situazioniste, in particolare alcune cose scritte da uno poco conosciuto che è Gilles Vain, mi viene in mente di mettere un po' assieme le due cose, quindi fare un'esplorazione urbana, quindi sì, dentro le mura, con una storia narrata che però si mischia sui luoghi, che non si sgancia da una narrazione temporale fissa, ma gioca con i punti architettonici che si vanno ad esplorare. Quindi diciamo un racconto nei luoghi della città, nei tempi della città, però anche insomma capace di rompere i ruoli dell'uditore, del narratore, ma che prova a giocare collettivamente questa piccola partita. Sì, quello è il nostro modo, potrebbe essere il nostro modo di muoverci all'interno della città, cioè quindi non è una visita guidata, non è niente di palloso, accademico, ma è una narrazione che potrebbe prendere anche strade un po' diverse, anche singolari, cioè nel senso che all'inizio del trekking urbano precedente una ragazza raccontò, poi non l'ascoltarono tutti, però insomma, che sua madre andava da PEC a fare una spesa non retribuita, chiamiamola così, durante gli anni 70. Questa narrazione può fare un giro di volta su anche improvviso e non studiato. Una visita non guidata, un viaggio irriverente nella Milano che ti aspettavi o forse no, però anche così un'occasione per partire da una serie di punti, di momenti, di temi di ispirazione e poi però lasciarti guidare dalle derive del momento. And when the MC rhyme and the DJ spin, I want y'all to just get down. Now while the MC rhyming and the DJ cutting, I want y'all to just get down. Lunatac compie 10 anni, una rivista di storie, lotte e culture della montagna. Da dove siete partiti 10 anni fa e insomma, in che stato di salute è oggi la rivista? Bene, innanzitutto ti ringrazio per questa opportunità e anche ringrazio tutte quelle che ascolteranno questo intervento. Sicuramente diciamo il percorso che Lunatac ha intrapreso ormai 10 anni fa, diciamo a dicembre sarà con l'uscita del numero 41, saremo appunto a 10 anni dalla prima uscita della rivista, è un percorso che di fatto alcuni di noi già avevano intrapreso attraverso altre esperienze sia editoriali sia di altre forme di intervento nei territori delle Alpi occidentali, già diciamo perlomeno a partire dall'inizio degli anni 90. Quello che si è cercato diciamo di costruire, a cui dare corpo con questo con questa rivista è stato un po', diciamo, l'idea che ci fosse bisogno di trovare una sorta di contenitore, uno strumento attraverso il quale si potessero un po' veicolare tutte le voci che dalla montagna, soprattutto da un modo di intendere la montagna che fosse più pertinente a quello che è, diciamo, una sensibilità e un impegno anti-autoritario, si potesse dare. Ecco. E, l'idea della rivista non è stata, diciamo, la prima scelta come strumento da utilizzare. Innanzitutto si era pensato di mettere insieme una serie di materiali, soprattutto materiali scritti da noi, ma anche materiali recuperati da tutto quell'immenso patrimonio di teorie, di esperienze che comunque il mondo alpino e soprattutto, diciamo, anche la cresta di un certo tipo di pensiero alpino ha sviluppato da sempre, o perlomeno, diciamo, nel corso dei decenni del secolo scorso, e che molte volte, diciamo, si trovavano ad essere un po' recluse in ambiti molto o di studiosi o comunque ambiti molto slegati da quelle che erano poi le effettive presenze, diciamo, umane nelle aree. Quindi l'idea era quella di raccogliere questi materiali per permetter loro di circolare nuovamente all'interno delle nostre vallate, nei nostri paesi, e quindi, diciamo, cercare di costruire, diciamo, insieme un corpo di contenuti che potessero essere appunto l'espressione di un pensiero antiautoritario, di una vita che cerca un'emancipazione dalle forme, diciamo, nefaste che conosciamo del sistema autoritario e tecno-industriale con cui ci facciamo i conti in questi periodi, e quindi cercare un po', diciamo, di sviluppare un altro modo di stare in montagna. Ecco, questo ragionamento all'inizio ci fece pensare appunto a una pubblicazione, ad un libro, e stop. In realtà poi, iniziando a raccogliere questi materiali, alcuni dei quali, come ti dicevo, erano anche, diciamo, il frutto di quella che è stata l'esperienza dei nuclei anarchici delle Alpi occidentali, che è stata un'esperienza che si è sviluppata, diciamo, all'inizio degli anni 90 fino verso la metà degli anni 90, e che pubblicava un foglio ogni 2 settimane, un foglio murale e di diffusione, diciamo, a mano, che si chiamava La Lince, un foglio che ebbe uno sviluppo abbastanza interessante dalle nostre parti, e oltre a questo materiale appunto cercavamo tante altre cose. Poi, raccogliendo questi materiali, ci siamo resi conto che appunto c'era tanto da scrivere, tanto ancora da raccogliere, riproporre, reinterpretare, e quindi un libro non sarebbe bastato. Diciamo che il periodo era anche quello, diciamo, che anticipava un po' sia, diciamo, il grosso delle mobilitazioni che sono poi culminate nella liberazione di Venaus l'8 dicembre del 2005, sia un po' anche quella che era la costruzione dell'opposizione alle Olimpiadi invernali che si sarebbero appunto tenute pochi mesi dopo. Quindi, nell'iniziare, facendo ovviamente, intervenendo in tutte queste iniziative, ci siamo trovati a confrontarci anche rispetto a questa idea di progetto editoriale con altre sensibilità, altre persone che non avevamo avuto modo magari di incontrare sul nostro percorso precedentemente. E quindi, proprio sulla spinta di questi momenti vissuti appunto in Val di Susa, momenti vissuti nel preparare le varie iniziative, volantinaggi, opposizione alla fiaccola olimpica che sarebbero poi accadute alcuni mesi dopo, ci siamo resi conto che una rivista periodica avrebbe forse dato più occasioni, più possibilità di incontrarci e di mantenere nel tempo questo confronto su questi materiali. Ed effettivamente così è stato. Quindi l'idea era quella appunto di un contenitore, come ti dicevo, che non avesse, diciamo, una voce unica, cioè un modo solo di interpretare la montagna, ma che cercasse invece di mettere a confronto diverse sensibilità che chiaramente, magari appunto trovando nelle pagine dello stesso strumento editoriale degli altri modi di affrontare la montagna, degli altri argomenti, delle altre posizioni, potessero anche, diciamo, entrare in relazione, o perlomeno venirne a conoscenza. Questa è stata un po' la struttura che abbiamo pensato. Il primo grosso argomento sul quale ci siamo dovuti confrontare, ovviamente, era il tipo di linguaggio da utilizzare, e, diciamo, tra alti e bassi, con momenti più riusciti e momenti meno, l'impegno nostro è stato quello di cercare di trovare un linguaggio che non fosse prettamente destinato a addetti ai lavori o al circuito militante, ma che cercasse un po' di rompere questo circuito per allargarsi e quindi riuscire a essere compreso anche da persone che magari a questi linguaggi non erano tanto avvezze, e ovviamente le persone che la montagna la vivono, la frequentano. E quindi lo sforzo sul linguaggio è stato molto importante, appunto, come ti dicevo, un lavoro continuativo che è sempre in corso e nel quale non pensiamo di aver trovato la soluzione, però è uno sforzo, diciamo, al quale che ci fa tendere sempre a cercare un tipo di linguaggio di questo tipo. Un'altra cosa che era importante era anche dove far circolare questa rivista, dove portarla, come distribuirla, quindi diciamo una distribuzione che si è scelta fuori dai circuiti commercianti a livello, diciamo, di grosse distribuzioni, ma ha cercato comunque di riuscire ad essere reperibile in luoghi che non erano, diciamo, quelli esclusivamente della distribuzione militante, quindi osterie, circoli culturali, rifugi, diciamo tutti quei posti, edicole dei paesi. E chiaramente che questa cosa qua, non appoggiandoci su realtà di distribuzione, diciamo, commerciale, è anch'esso un modo, un'occasione per andare a conoscere persone che vivono nelle varie vallate, quindi le riviste vengono portate a mano, si trovano delle persone che si fanno carico di distribuirla nella loro zona, appunto secondo questi criteri, e anche questo, diciamo, è stato abbastanza interessante perché effettivamente ci ha permesso di entrare in contatto con tante situazioni con le quali in passato non eravamo entrati in contatto. Radio Cash, tearing up the seven bells. This is Radio Cash, please save us, not the whale. This is Radio Cash, underneath the mushroom cloud. This is Radio Cash, don't need that primo swell. Per quanto riguarda appunto la vita di questi 10 anni di Lunatak, ha avuto, diciamo, una diffusione, diciamo, di numero in numero aumentano le vallate, i punti di riferimento, i punti di contatto, sicuramente ci sono stati dei momenti magari un po' più di difficoltà dal punto di vista redazionale di assicurare la periodicità fissa, cioè l'uscita ogni stagione di un numero, per cui a volte ci siamo trovati costretti ad accorpare due stagioni in una sola uscita. E abbiamo, appunto, con l'occasione del decennale, che ci ha visto anche in due appuntamenti, uno per le Alpi orientali, uno per le Alpi occidentali, momenti di festa, incontro, assemblea, abbiamo rilanciato dicendo: beh, chiaramente vogliamo andare avanti con questo strumento, però è anche giusto, dopo 10 anni, fare un attimino un momento di confronto con le persone che a vario titolo, con vario impegno e in vari momenti hanno dedicato del tempo a questa rivista, per vedere un po' come andare avanti. E ti posso dire che la risposta è stata decisamente positiva, perché pare che sia uno strumento che interessa e che sembra utile a tante situazioni diverse, per cui siamo ben animati a continuare con la periodicità fissa, mentre prima l'avevamo un po' messa in discussione, per, come ti dicevo prima, per comunque dopo 10 anni una redazione che comunque è ristretta in termini numerici, chiaramente ha bisogno di nuovi apporti, soprattutto nuovi articoli e così via, perché ogni tanto ci sembra quasi di ritrovarci a dire un po' sempre le stesse cose. Quindi... Ecco, resterei brevemente sul tema proprio del linguaggio rivista, nel senso che prima citavamo i 10 anni dalla liberazione di Venaus, i 10 anni che separano le Olimpiadi invernali piemontesi dall'Expo milanese, i 10 anni festeggiati, se non celebrati, in occasione di due feste in cui in una delle due abbiamo anche avuto occasione di incontrarci. Ecco, ma dopo 10 anni è cambiato anche tanto il panorama delle riviste, tante riviste in questi 10 anni, forse a partire da 10 anni fa, hanno anche chiuso. Lunatak invece ha scelto di proseguire in questo solco, o il progetto sta mutando forma, si è in qualche misura anche diversificato? Cioè, oggi è ancora la forma rivista che risponde alle esigenze? Ma sicuramente la rivista ha questo grande pregio, che è il fatto di dover, per garantire una periodicità, avere un contatto molto costante tra, appunto, le persone, che chi prepara articoli, chi li impagina, chi ne cura la parte editoriale, chi la distribuisce e così via, che sono appuntamenti costanti. Quindi attraverso questi appuntamenti, queste occasioni, sicuramente c'è anche modo di veicolare comunque tutta una serie di possibilità di intervento che vanno anche al di là della rivista. In effetti noi non abbiamo mai pensato alla rivista solo come strumento editoriale, ma appunto come strumento per far incontrare le persone. Io credo che soprattutto per quanto riguarda il contesto delle vallate montane e così via, è estremamente importante questo concetto di incontrarsi. Cioè, diciamo che il primo anello che manca, diciamo, rispetto alla possibilità di immaginare una montagna libera, una possibilità di installarsi, di utilizzare, diciamo, le possibilità di vivere sul territorio liberate da meccanismi, diciamo, di mercato o istituzionali e così via, è sicuramente il fatto di ritrovarsi. Sappiamo benissimo che molte delle nostre montagne sono montagne assolutamente desertificate, cioè spopolate, e quindi, diciamo, può essere un buon parallelo il fatto di ritrovarsi, vuol dire anche cercare di avere dei momenti in comune per affrontare certe discussioni e quindi mettere in pratica anche iniziative che ne siano conseguenti. E da questo punto di vista le iniziative di Nunatak stanno andando, come dire, è la montagna che si avvicina alla città oppure si va in direzione, per esempio, dalle Alpi occidentali verso quelle orientali? Cioè, la rete che poi è cresciuta attorno al progetto, al di là anche della periodicità della rivista, come dire, in questo momento è una rete che collega vallate e città, oppure è una rete invece che si sta ampliando proprio lungo l'arco alpino? Si sta ampliando sicuramente molto molto rispetto all'arco alpino e anche rispetto, diciamo, ai contatti che sono sempre maggiori con realtà degli Appennini. Sicuramente c'è sempre stato, soprattutto all'inizio, uno scambio molto forte tra quella che era, diciamo, l'impostazione appunto nostra rispetto al territorio, rispetto appunto a un contesto montano, e quelle che erano invece le spinte, i contenuti che ci venivano da quelle che sono i movimenti di lotta e di critica all'interno della metropoli, della città. E questo comunque è un canale che secondo noi è stato interessante mantenere sempre. Abbiamo sempre cercato di ribadire il fatto che non si trattasse di una questione città contro mondo rurale, quanto piuttosto il fatto di legare coloro che lottano nel mondo rurale con coloro che lottano all'interno delle metropoli. E questo era capire che il discorso, attraverso forme diverse, comunque sicuramente è un discorso comune per far fronte a quello contro cui dobbiamo porci. E questo sicuramente, però, devo dire che nel corso dei 10 anni l'allargamento a livello, diciamo, di vallata in vallata è sicuramente l'elemento che si è verificato, che ci ha dato anche maggiore importanza rispetto all'attività che stiamo facendo, anche perché appunto il nostro impegno era proprio quello di rivolgerci a situazioni che comunque cercano di uscire e criticare la metropoli principalmente. E quindi su questa cosa qua sicuramente l'allargamento di questi contatti, non, diciamo, dall'alto verso il basso, ma dall'alto all'alto, mi è sembrata sempre una cosa molto molto importante. Each time we have a quarrel, it almost breaks my heart, 'cause I am so afraid that we will have to part. Each night I ask the stars above, why must I be a teenager in love? One day I feel so happy, next day I feel so sad. I guess I'll learn to take the good with the bad, 'cause each night I ask the stars above, why must I be a teenager in love? Altezza, bufera, immensità, rischio. E ancora arrampicata, ghiaccio, scialpinismo, Dolomiti, Gran Paradiso, Tunu. 10 nomi, 10 parole con cui Franco Brevini, nel suo libro Alfabeto Verticale, ci racconta la montagna e l'alpinismo. Parole non scelte a caso, perché ci restituiscono da un lato la dimensione della montagna, dei grandi spazi verticali, le attività principali che in esso si possono svolgere, e tre luoghi simbolo che per l'autore racchiudono esperienze e storie che sono testimonianza di quello che nel suo libro vuole raccontarci, ossia la montagna non tanto vista come itinerari, ma come luogo che ci porta a far fatica, ad aver paura a volte, a soffrire, e la domanda che sorge spontanea: perché lo facciamo? Cosa porta l'alpinista, l'escursionista, l'amante delle montagne a impegnare ore e ore di fatica per raggiungere una vetta o per correre un sentiero? Fuori dal mito, fuori dalla banalità, Franco Brevini nel suo libro cerca di restituire attraverso accenni alla cultura, alla storia millenaria del rapporto tra uomo e montagna, quelle che sono sensazioni, esperienze e le motivazioni, appunto, che poi si possono racchiudere in quel fantastico equilibrio che si ritrova in vetta, in quelle fantastiche sensazioni che si provano mettendo le mani su una nuda roccia o sulla neve di un ghiacciaio. Bene, Alfabeto Verticale non è un libro per scoprire luoghi, non è un libro per conoscere personaggi, ma è sicuramente un bel esempio di come si può raccontare la montagna senza per forza incorrere negli stereotipi del turismo di massa o della competizione sportiva a tutti i costi. Alfabeto Verticale, Franco Brevini, editore Il Mulino. Anche la puntata numero 12 di Picchi di Frequenza giunge alla sua conclusione. Spero vi sia piaciuta. Per idee, segnalazioni, critiche, suggerimenti, come sempre c'è l'indirizzo mail abo@inventati.org, l'account sul social network azzurro @abuzzo3 o su quello blu alla pagina Picchi di Frequenza. Noi ci risentiamo come sempre venerdì prossimo sulle libere frequenze di Radio Onda d'Urto con Picchi di Frequenza.